radio sia fra sia flussi tu devi trattarsi, no, io come ti arrivo lì, non ho guardato, stavo dicendo io come ti arrivo lì, che raghera, che raghera, è positivo che va no, vado di 5, sì, segnale 3 a picchi di 5, segnale 3 a picchi di 5, allora sei anche da tua. Ah, già sta arrivato comunque, là, c'è problema. Essendo in alto, io essendo in basso, mi si dice arrivi, là. Chi è l'altro? Catalino? Catalino, senti qua, Raghele. Che ragazza, Lugariello. Senti qua, la vita mia, che ti chiede, che è verso. Però la mia radio con me va bene. Lo sai che andava giù io. Oggi controllavo un po' perché la madre, è su WhatsApp. Attimo che arrivi, sì. Parla pure a me, Luca. Ce la faccio e la mando direttamente a te. Ti la voglio vedere quell'antenna. Cosa? Un antennino è fatto con un radiale di mazzo, ma mi pare. Chissà come te la fa. E però esce. E tu va un radiale di dosso. E lui mi forse arrivi. Dammi il telefono con te. Vedete se non è proprio. Ma vedi come va andata, anche a te andata. Cosa, Lu? E ci ho mandato la foto anche a te, controlla. Se ti è arrivata. E la chiave. E beh, vista là. Sì che l'ho visto. Vista è andata lì. Franco, vista là. Carifo, beh, raga foto, mi dice con Claudio, mega foto. Che da palla, sì, ciao, la volta arrivata, sì. E a me da me, chi bella antenna, chi mi niente, e a me da me, sono attaccato in terra, aspetta la mano, là, è agganciata dal, alla righiera blu, guarda se la vediamo. Oh, lo fa? Sì che mi arrivi, Santiago 5. Stavo dicendo, ma il foro di quel dove c'hai i baracchini lì, nella finestra, ci avevamo fatto il foro per mettere quell'antenna VHF. Come anche io, non volevo un'antenna di macchina in quel foro. Guarda, guarda, anche a te, guarda, se la vedi tu. Se c'è già il foro fra quella PDC-800 che ci avevi della cosa, come si chiama, della macchina, si può mettere lì mi fra, esce un bel bene lì, ti lamenti? Esatto, ma invece di usarla con la base magnetica, ne smonti tutto, col mozzo si mette dentro quel il foro che avevamo fatto, e la usi da lì, capito? No, fra, l'ho messa lì, in quel braccio dove si stende, che c'è il buco, l'ho messa lì come che sia attaccata alla macchina, capito? Senza base magnetica, usciva un bel bene lì, tu fa vedavo con tutti, arrivi ad Alghero dai chivi, l'ultima antenna. Sì, Santiago 5, sì, fra, ma ti sento benissimo, non ce n'è problema. Sì, è buona, Radio 5. Santiago 7, sì, ma non lascia stare così, per fare due chiacchiere già va bene. Intanto ti ascoltano tutti. Cosa stavo dicendo? Fai quel lavoro lì, se no magari me lo dici, vengo, lo facciamo assieme. Almeno è stabile, la lasci lì l'antenna della macchina, capito? Ti è arrivata a fare, guarda adesso sono bene. Io l'avevo già vista, Lu, già la conosco, tu che non vedi. Quella che ho chiamata, Mantovana Tubo Mini. Mantovana Tubo Promiccione. Ah, allora, qui c'è il ma tu sappi, quella che è Claudio è cuocomone. Ma lo già, Edu, lo già. Natalino è cuocomone. Tu sei cuocomone. Ah, gli risponde allora. No, mi hai fatto disturbare tutte le televisioni di Sassari, mi hai fatto. Allora ne ha fatti, gli ha fatti i denti. Ha fatti i denti. E tu però quando fa vedi di io sono Natalino Cuocuoma, così ti conoscono. Infatti, lui mi ha minacciato. Ma dai, vero che sei Cuocuoma, eh? In lui ti ha minacciato? Non sanno a cosa vanno incontro. E mi sa tanto che televisione non ne vedono. Ma cosa ne pensi di questo coronavirus qua? Non ci scherziamo, io sono in quarantena, mi giovano, hai compreso? Cosa non lasciano a parte, sono bloccato a casa. Sono bloccato a casa, l'aria mia ha fatto dalle 2 alle 6, alle 5 hanno chiuso il bar. Un casino, ragazzi, un casino. un casino. Scusa, ma quelli malati si rimettono in quarantena allora? No, non è malati o non malati, bisogna stare a casa, perché altrimenti ci contagiamo uno con l'altro. Bisogna stare a casa e boom, a casa, sedo lì a casa. Non uscire solo per le piccole emergenze, non fare comunella, lontano da tutti, e se no non le buchiamo bene. Guardate che non è roba da scherzare. Non si scherza, è veramente un casino. Adesso tutto l'indotto si ferma, tutto. Te l'ho detto, c'è l'ordinanza per il bar, devono chiudere alle 6 di sera, ristoranti, pizzeria chiuse, cinema, alberghi, cioè guardate che è un casino veramente. Ciao Claudio, mi ha ascoltato, so che stavi anche male, volevo quasi telefonare. Per notizia, sul sito del Ministero degli Interni c'è il modulo per poter uscire di casa per motivi giustificati. Se non c'è quello in caso di blocchino, se non è per parlando di zitto, nel caso di blocchino potete chiederlo alle pattuglie di da poco, no. Per usare un arco più fuoco, anzi entro stasera saprete anche i nuovi provvedimenti, che sono ancora più precisi. Non si può uscire di casa, come stava dicendo Claudio. Occhio. Allora io ho già firmato, ciao Giaffra, io ho già firmato perché ero Olbia, all'uscita di Sassari c'era la stradale, e ho detto che appunto dovevo andare a Olbia, hanno voluto tutta la documentazione, un cantiere che sto seguendo ad Olbia, e niente, l'ho fatto sia per andare che per tornare, anzi mi hanno messo un timbro loro dove potevo rientrare, capito? E da oggi, da questo momento, quindi dalle 5 io sono rientrato, non mi muovo più da Sassari, rimango a casa, non me ne frega niente, il lavoro si ferma, quando basta tutto si riprenderà, non ho giurità a girarmi le balle con carabinieri, polizia e vigili del fuoco. E forse anche questo. Ragazzi, vabbè, io questo mondo l'ho visto su Facebook, l'hanno mandato, solo che cosa ne so, io faccio un esempio, da qua alla casa della mamma, non è che devo fare questo, forse perché io sto cambiando diciamo domiciliare. No, lui me l'hanno spiegato, non c'entra niente quello, anche io sono andato proprio qua a prendere l'acqua, a prendere due cosette al supermercato, anche se lì è un casino perché non ti puoi avvicinare, la cassa deve andare uno a uno, quindi le file sono più lunghe, e si sta fermando tutto, no, se cambi città, quindi io sono a Sassari, devo andare a Nuoro, devo fare un'autocertificazione e dichiarare perché sto andando a Nuoro, con quale motivazione. Così ho dovuto dichiarare perché stavo andando a Olbia, la motivazione perché stavo andando a Olbia. Nell'autocertificazione deve essere specificato tutto, perché se ti fanno un controllo dopo qualche minuto e risulta che tu non hai quel tipo di attività, non stai andando a svolgere quell'attività e hai dichiarato il falso, certo ti fanno il processo penale e ti arrestano per 3 mesi, hai capito? Quindi bisogna stare attenti, non facciamo strozzate, perché è veramente una cosa molto ma molto seria, molto ma molto seria. C'è l'ordinanza per il bar, lo sai che l'aria lavora al bar, è entrata alle 2, dovevo uscire alle 9:30, invece alle 5:30 hanno abbassato tutto, hanno fatto pulizia e già a casa. Capito? Quindi è veramente un casino, noi potevamo stare sereni e tranquilli perché la Sardegna poteva essere immune da tutto, visto che ci vuole la nave e l'aereo per venire qua a disturbare il nostro ambiente, ma purtroppo è successo che milanesi dalla parte della Lombardia, dalla parte insomma dell'Alta Italia sono venuti qua ad aprire seconde case ed è partito il putiferio, capito? Quindi questa gente che è scappata non ha fatto altro che mettere all'arma la Sardegna, che non aveva nessun problema. Vabbè, detto ciò io vi saluto perché mi allontano dalla radio, dai. Ciao Franco, Natalino, Gianfranco, Luca e chiunque fosse in ascolto. Ci sentiamo dopo se coincide, perché ho due cosettine da fare e poi magari rientro. Gianfranco, te il microfono fai girare tu. Sì, ok, classico, volevo fare una correzione perché questo è l'ultimo aggiornamento di martedì 10 marzo, cioè oggi alle 15:38 dal Ministero dell'Interno. non si può uscire di casa, che è differente dal fatto che sia olio o acqua. Non si può uscire di casa senza avere giustificati motivi. Ripeto, stasera credo che decidiamo direttamente la chiusura di varie attività e di vari servizi. Quindi, occhio a non confondere il comune o la provincia, che è riferito allo studio di casa, spostamenti personali in questo ultimo momento. Facebook e Company ci sono dei documenti falsi, erano presenti anche sul sito della Polizia di Stato, e adesso se li acchiappano le fanno su like. Aspetta, poi chiudo. No, io ho parlato con un sovrintendente della Travale e mi ha spiegato che nel circondario di casa mia io posso uscire, non posso fare comunella, devo mantenere a distanza, devo avere tutte le cose che loro, che appunto ci sono in vigore. Non devo fare autocertificazione per spostarmi dentro la mia città, ok? Se invece vado fuori dalla mia città, allora devo fare autocertificazione motivata. Questo è quello che mi hanno detto, questo è quello che sto dicendo, ma guarda che si parla delle 4, 4 e mezza, quindi non è che ci siano molte ore, che ore sono le 7 meno 20, perciò tutto lì. Va bene, dai, comunque. Il problema è che dobbiamo stare a casa il più possibile e soprattutto non fare comunella. Pochi movimenti, molte attenzioni. Ci sentiamo dopo, avanti chi deve riprendere. Registrato. Ciao Fra, alle prossime. Oh Fra, io devo portare il cane, non posso uscire a portare il cane. Sì, al dettaglio. Mi è sembrato che ci fosse un break, comunque queste sono delle 15.38, quindi tra mandarlo il tutto quanto abbiamo fatto di 5, le prossime ci prevede saranno in più. Il riferimento è, non è come hanno detto gli agenti evidentemente, ma è proprio per tenere la gente a casa, che è ben altra cosa rispetto a non far uscire la polizia. Tant'è vero che può fermare anche la polizia locale, il normale vigile e anche eventuali militari. E anche vigile del fuoco, tra l'altro, facendo parte del nostro interno. C'era un break avanti, buonasera. Però come se ci fosse anche di spagnoli. Abbastanza bene, Nico, abbastanza bene. S9, la radio 5. Vediamo Natalino. Natalino che si ascolta. Riprenditi Natalino. Io l'ascolto è Nicola l'ascolto sempre, che quando arriva passo passo devo non sentire perché siamo vicini. Ciao Nico. Io Marcello, e bisogna stare a casa il più possibile. Io già non sto uscendo, ho portato il cane stamattina e poi subito a casa. Ti posso rispondere io? Guarda, la sua situazione, c'era mio fratello che stava facendo fisioterapia e hanno telefonato a casa di non andarci perché hanno chiuso tutto. Stessa cosa per chi deve fare analisi, possono fare solo le urgenze estreme, proprio gravi. Tutte le altre cose sono da considerarsi annullate. Beh, direi, le registrate di mettere la mano in bocca, non capisco. Break. Ciao a tutti, a proposito dei dentisti, il mio dentista oggi ha annullato tutti gli appuntamenti, ha detto di non andare, eccetera, dai. Detto ciò mi sto squillando già al telefono, devo già andarmene. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, tocca a te. In pratica te la stanno già chiedendo, se non te ne sei accorto. Con quella carta te la stanno già chiedendo, anche perché tutti ci andiamo in macchina di nuovo, non so a pochi affetti. Niente, ci sono già disposizioni per i mezzi pubblici di essere tutti sanificati a ogni istituto, ma se continua così penso che riferirmi un po' più. Comunque stasera sappiamo qualcosa, dato che in giro vanno ragazzini che si vantano che a loro non succede niente, qua sta riempito. Attenzione poi alle pecuniarie news che stanno uscendo a Gogo dai sindocini, quindi date retta solo a quello che scrivono i professionali. Sì, stasera ancora più restrittivi, quindi penso stanno chiedendo anche le regioni del nord soprattutto di bloccare tutto, anche tra pochi di chiudere situazioni. Quindi perché hanno visto che purtroppo ci stanno criticando anche chi legge anche i giornali esteri, magari la sapete vedere, ci stanno criticando perché abbiamo una situazione grave, con tanti morti, oggi solo 800 e passa, siamo i secondi nel mondo dopo la Cina, quindi una cosa piuttosto seria, anzi serissima. Poi ho visto anche cose che stanno succedendo, effettivamente non dico qua, sono già nel panico, però si stanno preparando al peggio, al peggio peggio. Natalino, dicelo tu. Non stavo seguendo, Fra, mi devi scusare un attimo, che stavo parlando con la mia 50, stavi dicendo. Nicola ha detto, come mai succedono queste cose? Com'è possibile? È possibile perché oramai tutti si baciano, abbracciano, si vola da un capo all'altro del mondo e queste cose succedono, ovvero Natalino? Sì, purtroppo. Quando è? Ieri, ieri siamo andati a fare la spesa e siamo andati da Aerospin, tutti un metro l'uno dall'altro e poi arriviamo alla casa, c'era una casa sola aperta, dimmi tu, 2 ore by scimmie. E vediamo, sì, è una situazione veramente critica. Io sto temendo perché devo andare a portare il cane. Come faccio se non porto il cane? L'animale si sente male. Infatti ho fatto così stamattina, l'ho portato e sono subito venuto a casa e non sono più uscito. Se ti fermavano si chiede la serviziata. No, no, perché ti facevano confidare il foglio, che c'erano anche le pattuglie. Come ha detto Claudio, fermava stradale, carabinieri, anche polizia locale o baraccelli o chissà chi. E ti faccio compilare la dichiarazione su per gravi motivi di famiglia, mi devo recare la cosa, questo loro controllavano, magari con un'altra pattuglia, tu eri tranquillo, non è che capisco. Si può uscire in casi di comprovata necessità, quella era una comprovata necessità, c'era una bambina sola, quindi una situazione di pericolo, si deve andare, tutto lì, non è che... Però c'è gente che se ne va al mare, ieri c'era gente che andava al mare, c'erano i barchini, quando si notano quelle cose in una situazione del genere è gravissima, perché sai, il rapporto ideale è 1 a 2, cioè per un infettato se ne infettano 2, poi quei 2 ne fanno altri 2, e siamo già a 5. Poi questi 5 ne fanno altri 2, siamo già, insomma, sale di parecchio, Luca? Luca? No, sì, purtroppo, guarda, ci sono storie allucinanti per mercati, di gente che dice, ma a me non me ne frega niente, io sono sano, qua e là, e vai, si mette in mezzo. Siamo a livelli che veramente si funziona così, ci chiudono fuori i supermercati, altro che se alla volta, non ti fanno più pensare. Altra mattina hanno messo la striscia più di un metro, non ti devi avvicinare al banco. Nel bar lo stesso mi hanno fatto sedere. No, dove ci sono assembramento non si deve entrare. Anche nel negozio di alimentari qua vicino hanno messo la striscia, che è andata mia moglie a comprare cosa, e a uno ti fanno entrare e devi stare 1 metro lontano dal banco. Prego, non è vero, l'ho sentito io ieri al televisore, non è vero che ho l'influenza, buonasera. Adesso è uscito fuori anche che in Germania ce ne sono diversi casi, loro non avevano detto nulla, capito? Ma ormai hanno dovuto dirlo perché sono arrivati a 500 e passa a cazzo. E allora? Noi abbiamo anche il sindaco che ci ha prestato un pacquato. E in quarantena. Capo. A quanto stavano dicendo? Vero la cosa? Sì. Dice che sei che se ne è andato in vacanza e ne è tornato positivo. Sì, sì. Ma non sono fonti ufficiali queste. Cioè che l'hanno scoperto ieri sera. Questa è l'ordinanza ieri, adesso vediamo cosa decidono stasera. C'è un'intervista su Facebook di questi ragazzi, ha detto che non gliene frega nulla dal coronavirus, che loro vanno a divertirsi e tanto attacca ai grandi, che i giovani sono immuni a queste cose. Che vanno a bere a divertirsi e non ne frega nulla. Gente senza testa. Ovvia, che deve fare il mondo. Infatti, ciao Gianni, giusto per quello che diceva Gianni, visto in quadro nazionale, sono accorti che anche quelli che stanno, diciamo, gli infettologi, che praticamente la popolazione non sta rispondendo agli allarmi e di conseguenza le misure saranno veramente pesanti. Purtroppo questi ragazzi non si rendono conto che con queste azioni stanno uccidendo tutti i genitori, perché il discorso è quello, se lo fanno portano a casa magari hanno la sorellina piccola, hanno la nonna, hanno il papà che è già anziano, insomma stanno dichiarando in poche parole di essere degli assassini, perché chi fa queste cose se lo sa, comunque non lo sa tanto quanto. Se lo sa, vuol dire che sono stato montato veramente far male. Poi non è vero che sono solo gli anziani, sono anche giovani, anche molti medici, insomma, se la stanno prendendo brutta, posso assicurare che se la stanno passando veramente giorni tristi, mai visti di calore. Di calore. Certo miri che dottori e tutto il personale degli ossi, eccetera, eccetera. Sono in tilta adesso, hanno fatto la fotografia di un'infermiera che era addormentata in un angolino, poveraccia, stremata. Sì, perché se ci fosse stato più personale avrebbero risolto prima la situazione, sia dottori, sia infermieri, sia OSS. Adesso si sono accorti di assumere il personale solo per quando li fa comodo, poi lo ributtavano giù. Quello sicuramente è vero, però ripeto, in questo particolare caso, perché è un caso particolare che passerà la storia sicuramente, e per il nostro paese se continua così, insomma, dopo, è il primo caso dopo la guerra mondiale, talmente grave, siamo a quei livelli, a quello di guerra qua. Il problema non è tanto purtroppo degli ospedali, c'è anche quello ovviamente, però è della gente, perché se la gente fosse, diciamo, sanamente e rimanerebbe a casa, il virus non avrebbe ovviamente possibilità di contagiare le altre persone, e invece abbiamo questi ragazzini, questi balli giovani, questi anche dei vecchi, perché ieri, ripeto, è capitato che è andato a fare la spesa, si è trovato un rifiuto, ma non ne frega niente, ho fatto per primo, non voglio fare fila, eccetera. Cosa devi fare? Picchiarlo. Io ti potrei rispondere con qua presente Gianni, guarda. Gianni è a casa da non so quanto, ma penso che sia già più di un mese, vero? Per altre cause. Però Gianni si rimane a casa, perché dicono, guarda che fuori c'è un pericolo grosso. Se stai a casa non te lo prendi, o perlomeno lo sto balbettando con noi. E Gianni c'ha anche famiglia, tra l'altro. Confermi Gianni, hai fatto sei a casa che non puoi uscire. Allora io qua a casa sono esattamente una settimana, quasi due cervicale sono state 12 giorni, quindi sì, ma poi praticamente se ti dicono, se ti danno delle ordinanze vuol dire che c'è il motivo per cui te le danno, a parte il fatto che sono diabetico, che sono stato aperto da poco, quindi mi trovo debole, e sarei uno dei primi che si prendono il tiro. Il fatto che nessuno vuole rinunciare a niente, questo è il problema. Se ti conti un mese, lo sai, in cambio di avere sparito questo incubo. In Cina, che ovviamente è una dittatura, divina non posso proprio con la forza, però adesso sono appena, cioè sono crollati i contagi, in pratica stanno di governo, hanno riaperto anche le metropolitane, credo. Quindi, insomma, l'unica medicina che c'è è questa, basta andare tranquilli a casa, guardarci un film ogni giorno, sarà noioso, mi sembra di tutto, poi può anche fare la passeggiata, però stando estremamente attenti. Ma se continuano così non ti faranno fare neanche la spesa, se continuano ad esserci certi atteggiamenti, poi tu lo dovresti sapere, avendo fatto quel lavoro, se ti dicono fai così, punto e basta, quindi signor ti lo faccio. Perché si sono approfittati della debolezza delle persone, se trovavano gli americani ci sarebbero andati con i carri armati, ecco, e avrebbero fatto pure una cinquantina, e quelle donne che erano in strada si avrei affrontate con quelle macchine lì che fanno le strade, perché è una vergogna fare la sceneggiata mentre il paese sta in condizioni gravissime, e questo ci ritireremo dietro per qualche anno se non siamo, se non facciamo le cose per bene. Dopo così mi pare che comunque stando in casa Gianni indubbiamente abbia sofferto, abbia avuto dolori e abbia avuto tante aspettative, però insomma è ancora tra di noi, quindi mi sembra che questo sacrificio sia comunque andare sarà ripagato in termini di salute e in termini di stare meglio. Io la mattina seguo da fare, c'è un po' a casa, poi la piccola festa e il giorno è stato arriggio un po' la mattina di modo che cambi l'aria e poi resto a casa. L'unica cosa che è un andato a con il mio figlio a prendermi le medicine perché mi servivano e purtroppo sono medicine in salvavita che devo prendere. E a fare una spesuccia, una piccola spesuccia perché la cosa l'hanno già fatta, una cosa che mi mancava, gliel'ho fatta comprare. E subito è tornato a casa, ho detto Marco non stare in giro, stai lontano da tutti qua, e così ha fatto, capito? Io credo che con questo fatto non sono bloccato, ma può darsi sì perché li stanno rimborsando, ma l'amica mia gliel'hanno rimborsato il biglietto dell'aereo, lo sai, dovevo andare a Milano e non è partita e gli hanno rimborsato il biglietto, dovrebbero rimborsarlo, se praticamente era il periodo, è stato nel periodo che stavano bloccando. Comunque adesso l'Italia è stata una rossa, per cui adesso anche per uscire, per andare in un altro paese tipo Porto Torres, devi fare l'autocertificazione. Guardami, non so che vado a farmi l'opparina e ritorno, va. Sarà anche Natalino, vediamo. Natalino. Sì, sono qua. Non è per dire che ci siamo. Tu dirigio ne hai di... Credo, io sono da molto che non ci faccio, quindi, ma penso che qualche negozietto alimentare è ancora rimasto, sai. Stamattina era aperto quello di vicino qua. Quindi... Cioè di fame non si muore, finché c'è roba, anche se sei in casa e puoi mangiare, insomma, ti guardi la televisione, fai qualcosa, parli alla radio. E ieri ho fatto una bella spesa grossa, non si sa mai, no? per i nostri nonni che hanno subito sia la guerra, la prima guerra mondiale e dopo la famosa epidemia la spagnola, e quella di molti ne ha fatto in tutto il mondo, lo stesso, ma tanti, quella è tutto uscita di mano a tutti, perché c'è dentro la guerra, non hanno portato più gli americani. Quindi è iniziato in Francia, anzi in Spagna, perché erano portati in Spagna, poi ha fatto un percorso micidiale, di tutto di più. Speriamo che qua ci sia un pochino più di saggezza, o che si metta un po' di trapporto, però ci sono i bastoni, no, gli altri fanno quello che possono, se ne sono la retta, guai, avanti. La medicina c'è, ma nessuno la vuole prendere. La medicina si chiama isolamento, quello che è riuscito a fare la Cina, isolamento. Non ce n'è, per adesso purtroppo non c'è altro rimedio, a parte i respiratori artificiali, quello che posso dire, gli approvati non lavorano più, veramente. Poi prima o poi dovremmo anche fare delle scelte, no? Se il numero aumenta, che costi non ci sono, a chi lo mettiamo il respiratore? Speriamo di non arrivare a tanto. Avanti Gianni, che ti vuoi fare? Ieri abbiamo fatto la portata di eccoci, bisogna avere un po' di cervello per ascoltare ciò che dico. Addirittura a me mi ha chiamato il mio diabetologo. Praticamente ho avuto gli esami che ho fatto, li ho passati invece che andare lì, li ho passati tramite telefono. E poi alla fine mi ha raccomandato, ascolti bene quello che dice il televisore e faccia tutto alla lettera come dicono lì, perché quello che conta è che tutti siano compatti a fare le cose come si deve. Ci ricordi di lavarsi bene le mani, tutte queste raccomandazioni che ha fatto. Mi chiedo di abbettolo. Ma io ci ho preso al centro diabetico ed è bravissimo. Mi ho presentato tutti gli esami, mi ha fatto anche i complimenti perché ero tutto perfetto. Mi ha detto continui così e poi si ricordi sempre di sentire quello ciò che dico anche di che non preannuncia niente di buono. sia al governo sia all'opposizione. Poi penso stasera, salvo lì eccetera, ci dovrebbe essere un'altra metà punto. Poi di che natura lo possiamo sapere solo da loro, ma dirà la mano, dirà la mano di Dio di soluzioni. Noi purtroppo siamo qua, aspettiamo quello che dobbiamo fare, chi è diplomato lo sa, lo fa, non sa fare il polemico, ma dobbiamo solo vivere. Vediamo un po', purtroppo si è presente che tutti sono unanimi dicendo che il picco non l'abbiamo raggiunto. Se passiamo questo picco, diciamo, con una stella bassa ci va bene, invece la cosa sale non lo immagino neanche io, guarda. Ho anche usato la fantasia a diventare un fingalatore. La Francia sta funzionando, molti dal governo anche se l'ha compresa. Oggi c'era un ambasciatore, credo francese, che è andato anche a visitare la protezione civile italiana, cosa che lo sta facendo, perché anche i consigli che possono dare chi è in emergenza sono utili, perché adesso tocca alla Francia e alla Germania, noi ci siamo già dentro. Loro ci stanno entrando, speriamo bene. Ci rimane solo una cosa da fare sempre in casa, qualche preghiera, perché se ci dà ascolto poi magari possiamo anche fare candeli di lì. Ciao Fra, allora la Germania sta a nascondere, non è a 1530 di fatti di che sono con le, con coronavirus. L'hanno nascosto, capito? La Francia non si merita nulla perché ci ha preso per i furtivi, perché loro non ci hanno mai fatto nulla e noi eravamo, praticamente poi ci ha fatto credere che è partita da noi. Hanno fatto anche la vita al coronavirus per prendersi in giro, quindi che se ne vada in affanculo, scusando la frase. Ho detto che la Germania stava nascondendo neanche 1530 di ammalati di coronavirus, mentre invece la Francia ci ha preso per i fondelli, ha fatto anche la vita al coronavirus, praticamente è colpando l'Italia di questa cosa, praticamente dicendo che la partita da qua là. Anche li drogavano e li picchiavano. I tedeschi è una razza di merda, sono stato sempre così. Per un italiano, quello che penso che ammazzavano, ne ammazzavano 5 gli italiani, come se il valore fosse diverso. Ma comunque cioè, è una razza proprio che non è potuto sopportare. Ah beh certo, perché poi le Turchia se ne cadevano sull'apertura e sì, non potevamo mangiare il grosso. Però cambiamo discorso, basta con, si parla solo di questa cosa adesso, poi c'è il televisore, tutti i canali parlano della stessa cosa, qua parliamo di questo, qua bisogna mettersi in testa che ognuno deve fare solo bene, così almeno la cosa si defenda, mentre invece se ognuno se ne frega, uno lo fa e 100 no, è utile che vada a farti con questa teoria, di stare a casa. Signore. alle prossime, anch'io mi sto guardando un po' la televisione, stanno parlando che vogliono chiudere tutto, eccetto le farmacie e i negozi di alimentari. Sì, ciao Nico, buona serata. Ascolta, comunque, cerca di metterti anche un attenino sul terrazzino, qualcosa, così non stai lì a fare queste prodezze di salire sul tetto con la pioggia, col vento, col gelo. Un attenino sul terrazzo, di quelle buone, di qualità e di gioia, non è che ti vede tra l'altro. O anche un bipolo, come ti pare, se fa sempre l'attenzione un po'. Noi ci sentiamo a problemi e tu stai a calduccio. Ok, buona serata, alle prossime. Ma noi, io preferisco sempre gli eroi vivi che gli eroi caduti nell'adempimento del dovere, e quelli, oi, va bene, ciao, buona serata, amico. Riprendi, anche la Natalino sta andando a cena, anch'io, perché c'è un 9:20, quindi ora anche di cenare, riprendi Gianni. Sì, saluto tutti cordialmente, allora dai, buona serata. Anch'io, io faccio solo di mangiare. Per me ancora è presto cenare, alle 8 io mangio. Sì, vabbè, ma una cosa e l'altra, non è. Poi ci devi anche pensare a cosa mangiare, capito? Quando non c'è l'idea esatta, no, certe volte non si ricordate. E quindi, sì, qualche cosa, una cosina di leggera. E poi, possibilmente, quando sì, ecco, sono tranquillo, perché queste notizie dicevo sono peggiori, un po' di luce per favore. Purtroppo è mentira la cosa, non è che si può sorvolare non guardando le cose. C'è rimasto qualcuno su questo canale? Pare di no. Comunque la cosa che mi spaventa non è tanto la malattia, che soprattutto per noi che siamo passati, già, per quanto pericolosa sia, ma è il fatto che a tutti gli altri non mi resta niente, capito? Per il cattivo, è quello che mi deluge, perché mi dà un senso un po' di vergogna, no? Come di far parte di un paese di persone veramente grezze, perché questi sono tante tradizioni persone, sono cittadini, in Italia in generale, la comunità regione. Però purtroppo quando per questi casi senti ferito nell'orgoglio, e soprattutto è gente che dovrà portare avanti l'Italia. Come saranno queste persone? Spero che maturino, perché questi venturini che dicono che non gliene frega nulla del coronavirus, che loro vanno a divertirsi, che addirittura uno ha detto portiamo avanti l'economia almeno per vendere facendo, andando a ballare eccetera, se no l'economia muore. Noi anche siamo i migliori perché portiamo avanti l'economia, ma poi infatti mamma mia. Già, ma è sembrato questa avventura di sentire qualcuno che chiamava, ma era bassissimo. Avanti se c'è qualcuno che sta chiamando? Per me era propagatorio, sentite anch'io, ma era propagatorio. Partiamo, se come ieri, propagazione dovuta alla ionizzazione dei fulmini, forse perché sta arrivando l'alta pressione. Io preferisco l'alta pressione, almeno un po' più in calo, perché c'è uno spazio tecnico, ma la faccia con tutti i ginnati che è un capo, perché se no si aspetta che rimane dalla SM della pista, ma ci ha fallito la gamba di lei. E va bene, allora sono, hanno chiuso tutti, quindi se va a mangiare, dai. Purtroppo così, l'importante è che tu stai meglio, fai quello che ti hanno detto, speriamo, certo, forse la miseria, ma per te per molti altri andano da un altro consiglio all'altro, cioè veramente sta iniziando a fargli paura. Sì, io il prezzo devo andare a fare la latte e poi la visita ufficiale per un giorno. Non so cosa farò perché se non si può uscire non c'è scontra. Ma no, più che altro si può uscire perché c'hai una questa istanza. Il problema è anche che ci sono le condizioni, diciamo, di coraggio ad andare a fare queste visite, che forse sono i sanitari, non solo i sanitari, ma anche alla parte lui, oppure ci sarà un po' più, come sembra che sia già succedendo. I laboratori, ad esempio, non funzionavano, comprano molte più cose a piccolo, tutti i necessari. Stiamo a vedere tutto lì, c'è solo da aspettare, da far tempo e aspettare serenamente quello che si è stato in questo fatto. Poi ha la carità, non sembra come comportarsi, ovviamente. Ma dopo di queste situazioni deve essere più grande di noi, è una battaglia. C'è un break, è avanti. No, quello che mi meraviglia è che poi una convinzione che è proprio deceduta, perché anche io ero formalmente convinto che man mano che sta libertà tutti quanti, no, inizia a assaporare, sai, avvicinarsi alla pensione, alla tranquillità, e invece sei tutti quanti. Pensano a pensione, perché te ne stai prendo tranquillo in campagna. Oh, io ho perché sei isolato, siamo quasi in campagna, ti dico. Solo che devi andare a lavoro, sei lavorato, sì. Beh, sì, guarda, stasera è un po' troppo. Non ti posso dire robe, e neanche per fare che cosa, però dico cose. No, ma posso di comportarti, a volte il lavoro ti butta ancora più a terra, quindi lasciamo perdere. Vabbè, oh, è 26 esattamente. Io inizio a preparare le padelle, le padelline, ci sarà Marco, sta ancora mangiando, perciò la prima colazione, però è la cosa che sono, certo che ce la farà piacere. Ma che avessi un mondo di un cestino, quindi anche la sua. Ah, così sì, fatti un colpo, sì, sì. Siamo proprio di noi, siamo proprio con le bocca. E io per darmi altro, io. Dovevo andare in bagno, quindi devo decidere, ho più un po' di palazzo, adesso le faccio la pantucciare. E tira a campare. Guarda, sul pensiero. Ah, per mangio la notte e poi domani posso andare a lavorare perché sennò ovviamente non entrare alla parmigiana, a palazzo di sono un pochettino pesante, però io me ne mangio, però magari a pranzo. E io ti riesco anche il fiocco, no, quello non ho problemi. Posso mangiare anche il peperone la notte, cosa che sono per pesante, pure la peperonata la notte la mangio, non mi fa perché? Perché io vado a dormire alle 2, 2:30, no? Non sono di quelli che dormono la presto, capito? Quindi è tutto il tempo di decidere. Stasera mi è venuto a mettere così perché c'era la preparata, da questa preparata se non le faccio 50. Ho preso le affettate, le ho fatte, dai. Tanto siamo in 2 e a quella che ci fa. Ecco la cesta, non lo fai ricordare, mi sembra sempre è fame, anche se per un che buono, ma proprio quelli non siamo dei bucci tutti, vicino, quindi io ho già pranzo, poi mangio il però quando volevo il stomaco, sai che sono due peggiori, quindi sappiamo che c'è. No, vabbè, la lo sai che mi dai un po' di stomaco, è fatto. Se non prende il gatto protettore, con le pastiglie che prendo. Sì, io sono stato avvisato, mi è portato dietro come comunicazione, ma se non fa fermo sono un po' rupa, almeno sono andato, sono stato tutti, adesso specialmente è stato fragolo che si vede rispetto a me, è difficile trovare qualcuno che non dice usare in Italia. Qua io li ho usati dal momento che ho avuto bruciare lo stomaco, ma è passato qui. L'ho detto alla dottoressa e mi ha ordinato questo, perché prima lei non aveva fatto la cena, lo dicevo io, uno un cavolo. Da quando ho preso quello non ho più avuto niente, capito? Quindi, e da proprio l'ho avuto le passate. Però credo, soprattutto se sono anche chiamatori, quelli non lo so, la differenza della patitina, la vaccina in Italia non danneggia lo stomaco, presa ovviamente nella situazione che punta, è tossica per il fegato, è vero che in Stati Uniti è l'arma preferita per il suicidio, no? Tutte le pastiglie fanno male, ai reni specialmente. Se tu noti quando prendi molte pastiglie stai sempre andando in bagno a fare la pipì, perché? Perché il nostro corpo cerca di espellere il contenuto che c'ha. Tutte le pastiglie fanno male a me. Io mi dico, sono dei figli, quindi ti puoi immaginare. Io lo prendo solo l'uomo, per evitare di avere il gusto, solo da passione, va bene, è già bene, che per colpa tua adesso mi sono fatto il fame, faccio una cecchina dopo. E poi andando, io vado a letto presto, quindi sono andato a mezzanotte, però mi sveglio anche presto, alle 6 fila va bene. Beh, quando lavoravo anche era così, per me era così la stessa cosa. Vabbè Gianfranco, ti auguro un buon proseguimento, pensa a me mangiando le melanzane, ti viene qua. Ciao, ciao. Ciao Giacomo, tornando indietro un pochettino, penso che tutto sommato il fatto che se ne sia andato sia un grosso vantaggio, perché se vedi stanno facendo una vita d'inferno adesso, dentro dei corsi, sia per portare carrelli, turiste, gente di scaffali, penso che guardi come si può dire il bicchiere mezzo pieno, sono mezzo vuoto, insomma è fatto bene. I miei colleghi mi hanno mandato le fotografie, sono tutti in mascherina e guanti e raccomandano vivamente i clienti di non andare in tanti a fare la spesa, basta una persona e l'altro aspetta fuori, perché così, solo così si può evitare il contagio anche con mesi, eccetera, eccetera. Appunto, stavano per evitare, quindi meglio l'unica, non si deve usare, eccetera, ma alla fine è andata anche bene. E se no dall'ospedale, non mi pare quello di essere uscito dall'ospedale, io stavo temendo che il coronavirus infestasse gli ammalati, capito? E quello è il problema. Infatti è tutto solo il problema. Si ricorda che lì dentro è veramente una cosa allucinante, per carità, guarda, meglio starci lontano da questo. Purtroppo con le cause della vita mi sono qualcosa, sono brutti, molto brutti, è meglio dimenticarli. Già, saluta alle prossime, dai, ci mettiamo avanti. Ciao, ciao, buona cena, ciao, ciao. Ciao, anche Natalino, Polo, Marco. Ciao, Guido. anche a te, da te, lo si signora. Sta cucinando la maresciane. Ciao, e io farò mangiare. Ho capito. Io la preparo a mangiare, ho fame. Va bene. Ciao, ciao, ciao.